ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Essa in quel momento, come abbiamo detto, ritta vicino alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella e le bianchissime dita intrecciate nei voti, e guardava fisso Lucia, che veniva avanti esitando. «Reverenda madre e signora illustrissima», disse il guardiano a capo basso e con la mano al petto, «questa è quella povera giovine per la quale m'ha fatto sperare la sua valida protezione, e questa è la madre». Le due presentate facevano grandi inchini. La signora accennò loro con la mano che bastava e disse, voltandosi al padre, «È una fortuna per me il poter fare un piacere ai nostri buoni amici, i padri Cappuccini, ma», continuò, «mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovine per veder meglio cosa si possa fare per lei». Lucia diventò rossa e abbassò la testa. «Deve sapere, reverenda madre», incominciava Agnese, ma il guardiano le troncò con un'occhiata le parole in bocca e rispose: «Questa giovine, signora illustrissima, mi viene raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partire di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli e ha bisogno per qualche tempo d'un asilo nel quale possa vivere sconosciuta e dove nessuno ardisca venire a disturbarla quando anche...» «Quali pericoli?» interruppe la signora. «Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in enimma. Lei sa che noi altre monache ci piace di sentir le storie per minuto». «Sono pericoli», rispose il guardiano, «che alle orecchie purissime della reverenda madre devono essere appena leggermente accennati». «Oh, certamente», disse in fretta la signora, arrossendo alquanto. «Era verecondia?» Chi avesse osservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore avrebbe potuto dubitarne, tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spandeva sulle gote di Lucia. «Basterà dire», riprese il guardiano, «che un cavalier prepotente, non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria sua e in vantaggio del prossimo, come Vossignoria illustrissima, un cavalier prepotente, dopo aver perseguitato a qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe, vedendo che erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggir da casa sua». «Accostatevi, quella giovine», disse la signora Lucia facendole cenno col dito. «So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso». In quanto all'accostarsi, Lucia ubbidì subito, ma rispondere era un'altra faccenda. Una domanda su quella materia, quando anche le fosse stata fatta da una persona a sua pari, l'avrebbe imbrogliata non poco. Proferita da quella signora con una certa aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. «Signora madre, reverenda», balbettò e non dava segno d'avere altro da dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si crede autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima signora», disse, «io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, timorato di Dio e ben avviato. E se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io, so che parlo di un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui, e quello è un uomo pieno di carità, e se fosse qui potrebbe attestare». «Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata», interruppe la signora con un atto altero e iracondo che la fece quasi parer brutta. «State zitta voi. Già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figliuoli. Agnese, mortificata, diede a Lucia un'occhiata che voleva dire: vedi quel che mi tocca per essere tu tanto impicciata. Anche il guardiano accennava alla giovine dandole d'occhio e tentennando il capo che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. Reverenda signora, disse Lucia, quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovane che mi discorreva, e qui diventò rossa rossa, lo prendevo io di mia volontà, mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre. E in quanto a quel signore, Dio gli perdoni, vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotti a far questa faccia, di chiedere ricovero e ad incomodare le persone da bene, ma sia fatta la volontà di Dio, sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi, povere donne. A voi credo, disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo, non che abbia bisogno d'altri schiarimenti né d'altri motivi per servire alle premure del padre guardiano, aggiunse subito, rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. Anzi, continuò, ci ho già pensato ed ecco ciò che mi pare di poter far di meglio per ora. La fattoressa del monastero ha maritata pochi giorni or sono l'ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupare la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei. Veramente, e qui accennò al guardiano che si avvicinasse alla grata e continuò sottovoce, veramente, attesa la scarsezza dell'annate, non si pensava di sostituire nessuno a quella giovine, ma parlerò io alla madre badessa e una mia parola è per una premura del padre guardiano. Insomma, do la cosa per fatta. Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe. Non occorrono cerimonie, anch'io in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza dei padri cappuccini. Alla fine, continuò con un sorriso nel quale traspariva un non so che di ironico e d'amaro, alla fine non siamo noi fratelli e sorelle? Così detto, chiamò una conversa. Due di queste erano, per una distinzione singolare, assegnate al suo servizio privato e le ordinò che avvertisse di ciò la badessa e prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con Agnese. Licenziò questa, commiatò il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta dando le nuove istruzioni e se ne andò a scrivere la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo. Gran cervellino che è questa signora, pensava tra sé per la strada, curiosa davvero, ma chi la sa prendere per il suo verso, le fa far ciò che vuole. Il mio Cristoforo non s'aspetterà certamente che io l'abbia servito così presto e bene. Quel brav'uomo, non c'è rimedio, bisogna che si prenda sempre qualche impegno, ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta, che ha trovato un amico il quale, senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende, ha condotto l'affare a buon porto in un batter d'occhio. Sarà contento quel buon Cristoforo e si accorgerà che anche noi qui siamo buoni a qualche cosa. La signora, che alla presenza d'un provetto cappuccino aveva studiati gli atti e le parole, rimasta poi sola con una giovine contadina inesperta, non pensava più tanto a contenersi e i suoi discorsi divennero poco a poco così strani che invece di riferirli noi crediamo più opportuno di raccontar brevemente la storia antecedente di questa infelice, quel tanto cioè che basti a rendere ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo. Era essa l'ultima figlia del principe, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parere le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro, e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse, la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso per lasciare intatta la sostanza al primogenito destinato a conservare la famiglia, a procrear, cioè dei figliuoli, per tormentarsi e tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca. Decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa ad alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano, poi santini che rappresentava monache, e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto come cosa preziosa e con quell'interrogare affermativo: bello, quando il principe o la principessa o il principino, che solo dei maschi veniva allevato in casa, volevano dar l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovassero modo di esprimere bene la loro idea se non con le parole: che madre badessa. Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, tu sei una ragazzina, le si diceva, queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso. Qualche altra volta il principe, riprendendola di certe altre maniere troppo libere e familiari, alle quali essa trascorreva con uguale facilità, ehi, le diceva, non è questo il fare d'una par tua. Se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te. Ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero, perché il sangue si porta per tutto dove si va. Tutte le parole di questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l'idea che già lei doveva essere monaca, ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte le altre insieme. Il contegno del principe era abitualmente quello di un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un'immobilità di risoluzione, una ombrosa gelosia di comando che imprimeva il sentimento d'una necessità fatale. A 6 anni Gertrude fu collocata per educazione, ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l'abbiamo veduta, e la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza, e accozzando questa qualsiasia testimonianza con alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, vi godeva d'una grandissima autorità e pensò che lì, meglio che altrove, la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora. Né si ingannava. La badessa e alcune altre monache faccendiere che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno di una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento. Accettarono la proposta con espressioni di riconoscenza non esagerate, per quanto fossero forti, e corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola, intenzioni che andavano così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina. posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altra per esemplare, chicche e carezze senza fine e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nel laccio, ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo. Ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'accorgevano bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopra esame, parte stavano zitte per non fare scandoli inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi d'essere stata con simili arti condotta a quello di cui si era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col farle carezze tenere e malinconiche. Ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero. E la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine, se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero, ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva a ogni costo essere per le altre un soggetto di invidia e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose ma circoscritte e fredde che può somministrare il primato in un monastero, contrapponeva in esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere il chiostro. Ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che, alla fin dei conti, nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro. Che lo poteva, purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva. E lo voleva, infatti. L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente l'immagine di un avvenire gradito. Dietro quest'idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato, e a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne che erano ben altrimenti sicure e provava per esse dolorosamente l'invidia che da principio aveva creduto di far loro provare. Invidiandole, le odiava. Talvolta l'odio si esalava in dispetti, in sgarbatezze, in motti pungenti. Talvolta l'uniformità delle inclinazioni e delle speranze lo sopiva e faceva nascere un'intrinsechezza apparente e passeggera. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate e faceva sentire all'altre quella sua superiorità. Talvolta non potendo più tollerar la solitudine dei suoi timori e dei suoi desideri, andava tutta buona in cerca di quelle, quasi ad implorar benevolenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili guerricciole, con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia e si inoltrava in quell'età così critica nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa. Un non so che di molle ed affettuoso, che dapprima v'era diffuso leggermente come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro. Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne. Si tratteneva con essi, parlava loro e si rispondeva in loro nome. Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando i pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose, ma la religione, come l'avevano insegnata alla nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altre. Negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi e compresa da una confusa idea di doveri, si immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello Stato fossero una colpa, e prometteva in cuor suo d'espiarla chiudendosi volontariamente nel chiostro. Era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima di essere stata esaminata da un ecclesiastico chiamato il vicario delle monache o da qualche altro deputato a ciò, affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta. E questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che l'avesse esposto a quel vicario il suo desiderio, con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevano preso il tristo incarico di far che Gertrude s'obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un dei momenti che abbiamo detto per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E a fine di indurla più facilmente a ciò, non mancarono di dirle e di ripeterle che finalmente era una mera formalità, la quale, e questo era vero, non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancor giunta al suo destino che Gertrude si era già pentita d'averla sottoscritta. Si pentiva poi d'essersi pentita, passando così i giorni e i mesi in un'incessante vicenda di sentimenti contrari. Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di palesare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e d'accattar consiglio e coraggio. C'era un'altra legge: che una giovine non fosse ammessa a quell'esame della vocazione se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandata e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero e condotta nella casa paterna per rimanervi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto, ma la giovine aveva tutt'altro in testa. Invece di fare gli altri passi, pensava alla maniera di tirare indietro il primo. In tali angustie si risolvette ad aprirsi con una delle sue compagne, la più franca e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informar con una lettera il padre della sua nuova risoluzione, giacché non le bastava l'animo di spiattellargli sul viso un bravo «non voglio». E perché i pareri gratuiti in questo mondo sono molto rari, la consigliera fece pagar questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata tra 4 o 5 confidenti, scritta di nascosto e fatta ricapitare per via d'artifici molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà aspettando una risposta che non venne mai. Se non che alcuni giorni dopo la badessa la fece venire nella sua cella e con un contegno di mistero, di disgusto e di compassione le diede un cenno oscuro d'una gran collera del principe e d'un fallo che ella doveva aver commesso, lasciandole però intendere che portandosi bene poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato. La giovinetta intese e non osò domandar più in là. Pitagora ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.